Buonasera, benvenuti alla nostra nuova iniziativa. Questa sera abbiamo con noi Valentina Vecceglio, che saluto e ringrazio di aver accolto il nostro invito. Presentiamo il libro Un ponte fra due isole. E questa iniziativa si inserisce all'interno della nostra rassegna sulle scienze, la matematica e la medicina, che abbiamo iniziato quest'anno con il mese di aprile e prolungheremo anche nel periodo autunnale. Valentina Vecceglio è laureata allo IULM Comunicazione di Milano, indirizzo scientifico, ha conseguito un diploma universitario di interpretazione e traduzione, sempre SSML Carlo Bo di Milano, un master in scienze del giornalismo nei rapporti politico-istituzionali all'Università La Sapienza di Roma, e la sua tesi è stata pubblicata e rielaborata proprio in questo libro che è l'oggetto della conversazione di questa sera e che la biblioteca ha acquistato e mette a disposizione del pubblico, ma si può anche reperire, penso, in libreria. Ecco, Valentina è venuta a trovarci tempo fa, ha raccontato la propria esperienza, ha soprattutto illustrato il proprio percorso in curriculum e quelli che sono i suoi contributi all'interno della comunicazione scientifica, che è il suo appunto cavallo di battaglia, non solo per interesse personale e perché ha studiato e si è conquistato delle competenze in questo settore, ma anche perché c'è una forte motivazione personale che l'ha spinta a misurarsi in questo settore. E sono spinte anche molto forti, spesso nella vita appunto ci capitano delle occasioni nuove di cambiamento. Voglio ricordare inoltre che ha anche seguito un corso di scienze criminologiche con il professor Sidoti. E forse questo è uno dei primi argomenti che possono incuriosire e ai quali chiederei appunto subito a Valentina di darci una risposta, perché cosa c'entra la criminologia, l'indagine, con quello che hai da raccontarci questa sera, in particolare con l'ambito della medicina. Buonasera, funziona? Sì. Aspetti, è pronto. Sì. Buonasera a tutti, grazie della presentazione Valeria. Cosa c'entra? L'argomento è smisurato. Si parlava nell'introduzione al libro e leggevo anche nella presentazione stamattina sull'Alto Adige della crisi della medicina. In realtà si tratta di una crisi nella medicina, perché non ci siamo mai trovati, da quando la medicina ha preso effettivamente il via e ha incominciato a costruirsi con grazie a strumenti razionalistici e matematici a partire dal 1600, da Galileo in poi, non ha mai dato così tante possibilità di guarigione ed effettivamente di successo in molte malattie fino a pochi decenni fa ritenute inguaribili. Il problema è che se da una parte abbiamo una strumentazione, una diagnostica, quella che chiamiamo high tech, una tecnologia di altissimo livello, il problema è che quando ci concentriamo troppo su questo ambito rischiamo una deriva, cioè rischiamo di allontanarci poi da quello che è l'aspetto umano e tutta la sfera dello scibile, che ha a che fare poi con quello che va oltre la scienza tout court, quindi l'aspetto razionale, oggettivo, codificato. E per fare questo occorrono dei metodi. La medicina utilizza due metodi principali, cerchiamo di non parlare difficile, dopo arriviamo alla congiunzione con la scienza criminologica, che è il metodo deduttivo e il metodo induttivo. Il metodo deduttivo è basato effettivamente sulla regola sperimentale, dove da un'osservazione sviluppa un'idea che poi va verificato, riverificata, ripostulata per vedere se in laboratorio lo stesso esperimento è ricostruibile. Richiede tempi, richiede riflessione, buonissimo spirito di osservazione, una buonissima cultura di base, una serie di strumenti ovviamente che derivano dallo studio accademico. Dall'altra parte, quindi questo significa è uno strumento che richiede tempo, quindi una classica indagine clinica, che però non sia fatta, gioco forza, solo di un tipo di indagine. Per esempio un'indagine solo di tipo tecnologico, che può essere un'ecografia piuttosto che un esame obiettivo, per esempio non fatto, o prima l'ecografia dell'esame obiettivo. Il metodo induttivo invece è un metodo diciamo di tipo più veloce, più spontaneo, più intuitivo, che segue i cosiddetti illness scripts, cioè tutta una serie di diciamo diagnosi codificate che si studiano ovviamente durante il corso di medicina e con i quali i medici laureandi e specializzandi poi vengono costantemente confrontati, sperando anche in un affiancamento costante nella pratica clinica, e che viene di solito praticato nella medicina d'emergenza, cioè è la medicina che mi dà poco tempo a disposizione, che mi richiede un intervento veloce, un occhio particolare alla Colombo, ecco, per dirla così. Mm-hmm. Cioè, e non basta. Parliamo di dati, diciamo, esemplificativi. Qualche mese fa il responsabile dell'emergenza, dottor Cohen, dell'ospedale di Niguarda di Milano, parlava con quello che si dice, insomma, della richiesta, della necessità dell'emergenza. Quant'è l'emergenza? Quanti sono i codici rosso nei reparti di emergenza italiani, o parliamo anche del Nord Italia, diciamo, che danno un parametro molto attendibile, visto che anche il Caniguarda è un ospedale molto grande. Ebbene, lui stesso dice: ma in realtà guardate che i codici rosso sono solo il 5%, quindi noi medici abbiamo la possibilità di prenderci un po' di tempo, cioè l'intuitivo, il veloce, il metodo, diciamo, che mi mette sotto pressione, appartiene a una percentuale molto risicata delle emergenze. Quindi il metodo deduttivo, che mi dà la possibilità, non dico giorni e giorni, però di confrontarmi con i colleghi, di avere un discorso, uno scambio multidisciplinare, sempre che si possa fare il tutto nelle ristrettezze spesso dei finanziamenti, delle possibilità date al sistema sanitario, però ai livelli in cui noi spesso ci lamentiamo, la nostra lamentela è spesso, come si suol dire, una lamentela di lusso. In realtà gli strumenti di cui disponiamo sono numerosi. Quello che si aggiunge al metodo deduttivo e induttivo, che è tipico delle scienze criminologiche, e che quindi presuppone, primo, una buonissima cultura di base, un acutissimo spirito d'osservazione che purtroppo non c'è sempre, e su questo poi su questo aspetto sarà da parlare, poi andrà approfondito, perché l'osservazione purtroppo spesso o non è consentita o non le vengono concessi i tempi, oppure manca proprio la stimolazione di questa particolare dote cognitiva anche a livello di studio universitario. Poi potrò fare degli esempi di cosa stanno facendo già da qualche anno all'università dello Yale, in collaborazione addirittura con Scotland Yard, che è richiamata da questi principi, da questi, diciamo, sessions di allenamento dell'occhio, ha sviluppato un metodo per acuire lo spirito d'osservazione. Cosa è stato introdotto dalla scienza criminologica? L'osservazione abduttiva, cioè quella estemporanea, cioè io non devo solo andare a vedere quello che c'è o il particolare che magari mi potrebbe sfuggire, quindi l'osservazione, sempre che acuita, mi permette di vedere anche il particolare significante. L'abduzione significa andare oltre quello che sono o il metodo induttivo o il metodo abduttivo, cioè andare oltre cosa non c'è, cosa do per scontato, che cosa devo escludere prima di tutto, prima di prendere una tangente che magari all'inizio di questo incrocio mi potrebbe portare lungo una strada completamente sbagliata. Quindi l'esclusione dell'impossibile, questo è un altro diciamo dei principi cardine della scienza criminologica. Se questo può bastare, questo è il punto di congiunzione, che poi naturalmente spiego con vari esempi, vari autori. Sherlock Holmes comunque è colui che ha introdotto, oltre a essere il rappresentante tout court del metodo deduttivo, è anche colui che ha introdotto all'interno del metodo criminologico, Conan Doyle di per sé poi era un medico, quindi dalla sua pratica clinica ha inserito all'interno dei suoi romanzi quelle che sono poi le metodologie utilizzate ancora oggi in medicina. Okay. Quindi, come avete così potuto cogliere dalle prime battute, si tratta di un libro altamente tecnico, diciamo, per addetti ai lavori, ma che può fornire delle indicazioni ed essere utile anche a chiunque abbia voglia e la curiosità di muoversi all'interno di questo mondo della comunicazione. Magari potrei parlare di questo esperimento che hanno fatto all'Università dello Yale, di che cosa si tratta? Un certo Irving Braverman, dermatologo, docente all'Università dello Yale, qualche anno fa ha scoperto che i suoi studenti, pur essendo ferratissimi in ambito teorico, pur riconoscendo a livello cosiddetto double multiple choice questions, diciamo gli esami, cioè le risposte agli esami che venivano loro propinati, quando si trattava poi di diciamo abbinare o riconoscere le patologie sui pazienti, a prescindere dall'affiancamento che comunque c'era, a prescindere dall'internato ospedaliero che era previsto, insomma tutta la trafila che normalmente si fa negli ospedali, soprattutto in specialistica, insomma non funzionava il riconoscimento di queste particolarità, e diciamo che in dermatologia è ancora più importante forse, diciamo, l'osservazione dell'esteriorità del paziente che in altri ambiti specialistici. E cosa ha fatto? In collaborazione con la Pinacoteca dell'Università dello Yale ha organizzato delle session di osservazione dei quadri di tipo umanistico, quindi molto molto espressivi, anche quasi quadri romantici, molto espressivi, senza ovviamente delucidare i pazienti, gli studenti su quello che sarebbero andati a vedere, e con la presenza del direttore della Pinacoteca, che dopo avrebbe naturalmente dato un giudizio sulla spiegazione che questi studenti avrebbero. In cosa consisteva? Lo studente veniva posto davanti a quadri di soggetti, i quali avevano tutti avuto delle proprie questioni, storie personali di malattia, e senza sapere di che quadro si trattasse, ovviamente questo è stato verificato a priori, avrebbe voluto descrivere cosa aveva questa persona, eventualmente di che cosa è morto, di che cosa è deceduto, quali sono eventualmente le diciamo questioni pregresse, quindi le malattie pregresse o le comorbidità che questa persona aveva, e in effetti questa cosa è servita ad aumentare da un 50 al 70%, questa è stata poi introdotta regolarmente nel primo o secondo anno di università a Yale, nella valutazione, nell'acuire lo spirito d'osservazione degli studenti, che è effettivamente migliorato. Quindi è migliorato del 50-70%, e questo per spiegare, ripropongo una di queste immagini di Willis, che rappresenta il suicidio di Lord Shepperton, un poeta romantico, quadro del 1856 di Henry Wallis, che appunto ripropone una di queste scene che venivano fatte vedere agli studenti dello Yale. Insomma, per farla breve e ritornare al discorso della criminologia, Scotland Yard ha rizzato le orecchie e dice: ma guarda un po' questi, che cosa hanno fatto? E in effetti anche loro lavorano su, cioè il criminale è come il germe che deve essere identificato, deve essere isolato, deve essere quarantenato, deve essere distrutto, deve essere riabilitato in qualche maniera. Quindi il nemico comune, metaforicamente, è lo stesso, ed effettivamente Scotland Yard arriva periodicamente a fare dei corsi, diciamo, di così, refreshing, utilizzando queste metodologie di osservazione che fanno anche molto molto bene alle scienze criminologiche. Inoltre il corso è stato poi esteso ad altre università, in primis l'Università di New York. Ok, benissimo. Ecco, e così leggendo il libro, che è diviso appunto in 5 capitoli, ve li ricordo: il primo appunto riguarda la medicina, ecco, verso una medicina umanistica, mentre nella fase successiva si parla della scienza dei sensi, quindi la medicina tecnocratica, un ponte fra due isole, i capisaldi della comunicazione, e infine gli esempi di buone pratiche. Ecco, Valentina fa tutto un percorso. Diciamo che quello che mi aveva colpito era anche questo, se ce ne vuoi parlare, di questo concetto di indeterminazione, sì, applicato all'essere umano, al paziente, e anche nella comunicazione profano-specialistica, perché ci muoviamo tutti sempre in ambiti, anche da pazienti o parenti di pazienti, in situazioni particolarmente complesse dove c'è anche un tabù forse a volte da così da superare, ci sono ancora delle situazioni anche di così dove non c'è un equilibrio, ecco, nei rapporti fra il medico, il paziente o i familiari, per non complicare poi le cose con gli aspetti giuridici oggi come oggi. Se ci vuoi dare qualche accenno, ecco. Sì, allora, per quanto riguarda il principio della indeterminatezza, parliamo di due cose. Uno attiene alla indeterminatezza, che è il principio, diciamo, della alla base della biologia, è quello che un attimo smitizza, e forse fa anche bene alla medicina il fatto che venga smitizzata, perché le attese che vengono poste anche ai medici spesso sono talmente elevate, per cui dal medico si pretende la certezza assoluta di una diagnosi, una spiegazione, mi dica esattamente quello che devo fare. Fino a ieri non sapevo di avere una certa cosa, e da domani lui mi deve dire esattamente quello che devo fare, con la prognosi esatta, come fosse un linguaggio e matematico. Devo guarire. Devo pure guarire, e magari, visto che il paziente finora, soprattutto in Italia, nei paesi sassoni, oltre Alpe, c'è un atteggiamento più, chiamiamolo così, luterano, più individualista, meno paternalistico rispetto al nostro paese, dove la medicina è d'eccellenza, non c'è nulla da dire, anche se fuggono i cervelli, purtroppo questo lo sappiamo, mancano i finanziamenti ed è un grandissimo vortice che rischia di trascinare quel tantissimo di buono che abbiamo. E il problema è che il paziente è stato fino a poco tempo fa in una posizione di passività, per cui sempre così all'interno di questo rapporto paternalistico, dove da una parte andava anche bene, perché comunque c'era la massima fiducia nel medico, c'era il paziente che riponeva tutte le sue aspettative nelle mani del medico, dall'altra parte il discorso diventa complicato, perché nel momento in cui io devo mobilizzare delle mie risorse, delle mie riserve, devo capire che cosa sta succedendo per guarire e quindi aiutare anche il medico, il gioco non funziona più. Quindi se da una parte la medicina, quando è nata nel 16, diciamo il metodo matematico che poi è stato trasportato allo studio medico all'interno del 700 e dell'800, ha dato, diciamo, dei binari sui quali la medicina ha incominciato a diventare una scienza morfologica e una scienza esatta, con tutto quello che di buono c'era. Quindi parlo all'interno del mio libro di Bernot, che era è stato il fondatore della medicina sperimentale, ha codificato i principi del metodo sperimentale in medicina, è stato il precursore della cosiddetta regola dell'omeostasi, cioè che poi naturalmente ha sempre sono due facce di una medaglia: da una parte un organismo che si muove all'interno di determinati parametri, bene, oggi abbiamo visto che questi parametri non sono sempre dati con certezza, addirittura sono parametri spesso variabili, e questo lo si vede in tantissime tantissime analisi che si fanno. Un esempio, la regolazione continua del livello, per esempio, nell'anticoagulazione, cioè non posso impostare una cosa iniziale che deve essere sempre quella, il paziente deve ritornare regolarmente a farsi analizzare i parametri, perché magari la sua situazione generale di salute richiede un certo tipo di assistenza rispetto a un altro paziente. Un altro esempio potrebbe essere la mammografia, che è la soluzione di prima scelta nell'analisi precoce contro il tumore al seno, ma quando mi trovo davanti a una giovane donna che ha un seno magari più denso rispetto alla donna standard ultra cinquantenne, che di solito invece ha un seno più, diciamo, più grasso e quindi più visibile dalla mammografia, devo ricorrere a un altro esame, che è l'ecografia, e se questo non basta, la risonanza magnetica. Quindi abbiamo dei parametri più ampi rispetto a quelli che si pensava fossero definitivi, fossero rigidi, quindi bene il metodo sperimentale, bene parametri più ampi, però non va bene il fatto di ragionare secondo il metodo matematico-fisico, per cui l'uomo è una macchina che deve stare all'interno di un certo equilibrio, e questo equilibrio poi va ristabilito come appunto fosse un macchinario. Questo esula da tutto il resto, diciamo, della di quelle che sono le caratteristiche umane, le caratteristiche mentali, psicologiche, ma anche biologiche, organiche, che possono essere diverse e devono essere riconsiderate. Questo viene riconsiderato, e ne parlo all'interno del libro, attraverso il recupero della clinica in medicina, perché i sensi vogliono dire questo: la clinica in medicina, la rivalutazione dell'esame obiettivo, cioè il dedicare magari nel colloquio iniziale il tempo giusto al paziente. Perché il paziente si chiama paziente? Perché è paziente. Io sono convinta che il paziente sarebbe paziente se magari all'inizio gli si dedicasse un attimo più tempo. Non è una critica, non è una polemica, ma si sa, adesso i dati italiani non li ho, i dati germanici li ho, in Germania il tempo medio che si dedica a un paziente sono 7 minuti con la prescrizione e tutto quanto. Adesso si è visto dagli studi in comunicazione medico-scientifica, perché di questo mi occupo, che un colloquio sbrigativo, assente, disturbato da tantissime cose contingenti, può essere un corridoio affollato all'interno di una sala d'aspetto, può essere il medico che mentre pare ascoltarmi invece sta scrivendo nel computer, in realtà si sta perdendo tutto il resto che gli sto ascoltando. Allora, si è visto che tutte queste perdite di tempo, tutti questi vacuum, vengono a costare molto caro, perché alla fine ci sono accessi inutili agli ospedali per i pazienti che non sono riusciti a capire la terapia, telefonate inutili, pazienti che stanno in linea, ma soprattutto poi manca l'aderenza alle terapie. L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2003 ha fatto una rilevazione e ha visto che la metà dei pazienti non segue la terapia. Nel 2007 ci sono stati 400.000 morti per persone che senza la possibilità di poter interagire o cose, non parliamo di Italia, parliamo di altri paesi, parliamo degli Stati Uniti in questo caso, però le morti riguardano il mondo intero. Adesso non mi sto contraddicendo, cioè io posso ordinare un certo medicamento, un certo farmaco in America, ma non qui, questo intendo dire. Quindi i morti sono stati a livello mondiale, ma le percentuali sono state rilevate dall'America. In America è possibile ordinare farmaci anche attraverso internet, purtroppo internet non è regolamentato per quanto riguarda né la prescrizione né la tipologia di farmaci che possono essere venduti. C'è solo una direttiva, la 28 del 96 della CE, che vieta la pubblicità di farmaci su prescrizione, cosa che invece è libera negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda, e questo spiega anche i rischi e questi vuoti di regolamentazione giuridica, di cui si diceva prima, che creano poi ulteriori problemi. Insomma, un mondo complicato. Ecco, è un mondo complicato. Effettivamente questa crisi, che non è della medicina, è preciso, è all'interno della medicina, vuole recuperare i grandi pregi dell'esame obiettivo. Cioè il fatto che sarebbe così auspicabile che si recuperasse un po' come era idealmente il pensiero del fondatore della medicina clinica, William Osler, il quale aveva introdotto l'internato ospedaliero, anche l'internato, ecco, per esempio, anche queste cose, i tempi sono cambiati, cioè non è neanche colpa del medico di per sé, i tempi sono cambiati, i finanziamenti sono cambiati, gli internati sono più corti, i pazienti tante volte, forse anche un bene, dall'altra parte permangono per tempi molto più brevi negli ospedali rispetto a quello che era una volta. Quindi il medico una volta aveva la possibilità di seguire per settimane lo stesso paziente all'ospedale, cosa che oggi quasi non accade più. Quindi c'è un grandissimo turnover e poi c'è anche molta burocrazia. C'è molta burocrazia che sicuramente è molto molto pesante per la classe medica riuscire ad affrontare, anche il continuo aggiornamento sugli strumenti informatici che sono a disposizione. Parliamo di internet, Dr. Internet, il quale nel 95, con un editoriale direttore del New England Journal of Medicine, si prediceva essere la fonte di trasformazione dell'informazione medica. In realtà questa cosa, a distanza di un po' di anni, si è visto, non è accaduta. Le analisi all'interno della classe target, quindi del paziente, hanno dimostrato che non c'è una sostituzione del medico di famiglia con internet, c'è un'integrazione dei contenuti. In America hanno fatto molti studi, Sassoni in questo ci sono avanti tantissimo, tra cui per esempio Anderson nel 2003 ha fatto un ampissimo studio su un numero di 3200 famiglie, le quali sono state interrogate sull'uso di internet. Gli americani, un 70-80 milioni di americani utilizzano regolarmente internet per i più disparati motivi, che sia un second opinion, che sia informazione su farmaci, effetti collaterali di terapie, possibilità di fare della prevenzione cosciente, consapevole, insomma di tutto di più. Ed effettivamente si è visto che di queste 3200 famiglie, innanzitutto nessuna ha sostituito il dialogo con il proprio medico curante, ma semmai il 50% ha interrogato internet per prepararsi meglio, e il 16%, scusate, non il 50, il 30%, e il 16% di questo terzo ha detto che è stato decisivo il consulto di internet per prendere delle decisioni assieme al proprio medico. Sì, per essere più consapevoli. Sì, ma non c'è una sostituzione, questo è un buonissimo segnale di come sta crescendo. È vero che poi, ne parlerò un attimo subito dopo, sta crescendo l'alfabetizzazione sanitaria, quello che ci si propone di spingere molto forte. È una scienza abbastanza giovane, ma è una scienza che ha già tantissimi strumenti a disposizione. Gli stessi medici di questa indagine, l'85% di questi medici ha detto tutti i miei pazienti sono venuti da me consultando internet, e per un 50% più o meno è stato un vantaggio. Perché avevano un altissimo indice di acculturazione, se non altro in quell'ambito specifico in cui sono, per un altro 50% era una bella gatta da pelare, perché una volta che bisogna vedere anche qual è il livello culturale, il substrato culturale su cui poi vengono a depositarsi anche quali informazioni di internet. E lì non farebbe male dare delle infarinate per capire cosa è attendibile, cosa non è attendibile, quali sono i codici che identificano una buona pagina informativa su internet. Ci sono conflitti di interesse, da chi è finanziata, chi scrive. E per questo mi verrebbe da dire che esistono e sopravviveranno le biblioteche. Per esempio, come centrali di informazione, assolutamente sì. E di mediazione, sì. Di questo ne siamo convinti, perché ogni tanto, vabbè, so, però solo una parentesi, si lancia il grido d'allarme che tutto sommato con la digitalizzazione, i sistemi informatici, e cosa continuano ad esistere le biblioteche, a cosa servono e a cosa servono soprattutto i bibliotecari. In realtà la risposta è questa, certo. Cioè nel mare magnum delle informazioni, anche pericolose, perché spesso e volentieri anche in un settore medico c'è, certo, chi si può spaventare, farsi prendere dal panico, perché su internet una qualsiasi sintomo può diventare sinonimo o segnale di chissà che cosa, e quindi bisogna andare con prudenza. Ma anche in altri settori le informazioni sono veramente le più disparate, e quindi servono dei mediatori, dei professionisti di ricerca dell'informazione. Certamente questa è una componente fondamentale, ma direi in qualsiasi settore, ovviamente nel settore medico si tratta di vita, si tratta di vita, spesso anche di vita o di morte, pensiamo al problema oncologico. Quindi il problema oncologico effettivamente, la medicina, la divulgazione dell'informazione sul cancro ha incominciato a a prendere piede particolarmente alla fine degli anni 90, quando effettivamente gli strumenti a disposizione dell'oncologia erano effettivamente molto più corroborati che non 20 anni prima. Basti pensare al dottor Veronesi, professor Veronesi, che ha fatto la prima quadrantectomia all'inizio degli anni 80, 79-80. Insomma, però eravamo ancora all'inizio, e lì le possibilità di guarigione di una donna malata di tumore al seno erano esattamente inversamente, quasi inversamente rispetto a quelle che sono ora. Adesso ci avviciniamo all'85, grazie agli strumenti della prevenzione. E anche qui c'è da dire, c'è il pro, c'è il contro, cioè molto bene una prevenzione, uno screening, dobbiamo interrogarci, sicuramente la nostra sanità in questo è all'avanguardia, quando gli screening hanno senso, cioè quando ha senso andare a vedere tutto e di tutto di più. E qui c'è un altro pericolo dell'high tech. Da noi forse meno che in America. In America purtroppo le prescrizioni servono anche ad ammortizzare i costi dei macchinari. Qui si sta attenti, cioè attenzione, bene, medicina pubblica di alto livello, dobbiamo un attimino andare a sfrondare all'interno di questa giungla di tutto quello che ci viene propinato, quindi dati alla mano, capire cosa sta succedendo, quindi capire quando è appropriato fare un attack, sapere magari come cittadino la differenza tra un attack e un'ecografia, sapere se ci sono dei rischi, sapere se ci sono dei raggi, delle radiazioni che potrebbero farmi male. Quindi va bene voler avere la certezza su tutto, a parte che in medicina di certo non c'è nulla, dobbiamo sempre muoverci, smitizzare questa certezza assoluta che ci può aprire anche delle porte di salvezza, perché quello che, e faccio riferimento alla statistica di Pearson, è una correlazione, non è causalità. Cioè, se la mia statistica dice che su 9 donne che potrebbero stare sedute in questa sala ora, una sarà colpita nel corso della sua vita, scusate, facciamo giuri, non ci sono 8 donne, dal tumore del seno, non vuol dire che queste donne, che una di queste donne sarà colpita dal tumore del seno. E anche lì il parallelismo con Sherlock Holmes, la scienza criminologica, perché in una delle sue battute Sherlock Holmes dice: ma l'individuo da solo è un puzzle inintelligibile, mentre se fa parte di una comunità diventa una certezza assoluta. Io preferirei essere un individuo a questo punto, perché comunque è da lì che spesso si trovano anche le eccezioni alla regola, o comunque le caratteristiche diverse all'interno di un gruppo magari anche abbastanza uniforme di pazienti. Lo vediamo di nuovo nelle malattie oncologiche, per esempio ritorniamo al tumore del seno, dove si va sempre di più in direzione di una medicina individualizzata. Questo non significa che A viene trattato diversamente da B perché gli ho dedicato più tempo, perché lui ha avuto più possibilità, o perché culturalmente si trova a un livello per cui è riuscito a delucidarmi meglio la sua problematica, ma perché si cerca di offrire un livello, una medicina multidisciplinare che interpelli i vari specialisti, e per il singolo soggetto, anche se magari ha una variazione del BRCA1, BRCA2, non significa che dobbiamo togliere tutta la mammella, cosa che invece negli Stati Uniti fino a poco tempo fa era diventata quasi una moda. Quindi anche lì stare attenti da una parte a quello che si chiama poi in termine tecnico disease mongering, cioè letteralmente mungere la malattia, cioè ipermedicalizzare la persona, cioè perché devo vedere tutto se magari con quella cosa ci potrei convivere una vita intera e non ne morirò mai. Quindi non è che dobbiamo per forza vedere tutto, è lì, e lì è importante anche l'appropriatezza della prescrizione dell'indagine. Quindi insomma il ruolo del paziente è un ruolo attivo. Il ruolo del paziente è attivo, ma sempre assieme al suo partner, che è il medico. Infatti noi vorremmo passare da una medicina paternalista a una medicina di partenariato, cioè i due sono partner allo stesso modo, i due sono esperti in maniera diversa. Il paziente è l'esperto della sua malattia, non c'è nessuno più di lui che la conosca meglio di lui. Lui deve fare mente locale di tutto quello che è il suo vissuto, e fare in modo che questo vissuto venga trasmesso al medico. Il medico, attraverso gli esami che si diceva prima, e non necessariamente solo gli esami strumentali, dovrebbe riuscire a cogliere una buona parte, anche in poco tempo, non serve tanto tempo, della sua storia personale. E dall'altra parte lui come medico alla sua esperienza professionale dovrebbe estrarre idealmente il libro giusto dalla grande biblioteca di studi accademici, specialistici ed esperienziali che ha fatto. Quindi l'uno ha bisogno dell'altro, ma non solo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1998 ha decretato l'educazione terapeutica del paziente, perché il paziente è dotato della stessa perizia per quanto riguarda la sua storia della medicina basata sulle evidenze, la evidence-based medicine, che non va confusa con la emotional-based medicine, nulla a che fare, cioè la medicina basata sulle prove d'efficacia. Quindi significa che il paziente è dotato di autodeterminazione, collabora con il medico, inoltre è lui stesso un esecutore delle cure. È un vantaggio enorme se il paziente, ben erudito, riesce ad assistermi il nonno a casa, piuttosto che in ospedale, o piuttosto che in un pensionato, oppure spiegare determinate cose, determinati accorgimenti, per esempio profilassi anticaduta, cosa facciamo a casa, mettiamo via questo, mettiamo via quello, se il nonno cade, si rompe il femore e dopo la sua vita prende una piega, spesso non più recuperabile. Insomma, si va dalle indicazioni più pratiche alle indicazioni naturalmente più specificamente farmacologiche. E non dimentichiamo perché la medicina e diciamo le scienze medico-scientifiche sono così importanti, perché sono il settore portante della nostra economia. C'è la scienza, la ricerca e c'è la sanità. È un settore portante della nostra economia. Ricordiamo che una persona nell'anno della massima cronicità costa nell'arco della sua vita quello che è l'85% del costo che la sanità ha speso per lui nel corso della sua vita. Cioè nel momento del massimo processo cronico, della, diciamo che potrebbe essere forse, non so, l'ultimo anno di vita o gli ultimi anni, il paziente cronico costa l'80-85% dei costi alla sanità pubblica. Quindi il fatto che si aderisca, che si collabori, che ci si prepari, che si interagisca, cioè la cosa fondamentale è questo scambio tra le due soggettività. Per questo la metafora del ponte, questa intersoggettività, lo scambio di informazioni di tenore, velocità e di forza diversa, spesso su questo ponte che unisce i due piloni. Ma medicina e pazienti stanno all'interno di un arcipelago. Questo arcipelago, che appunto è la teoria scientifica su cui si basa, che poi è stata praticamente deriva anche da altre scienze, si basa il mio libro, è proprio quella di un arcipelago all'interno del quale, l'arcipelago di Venezia, abbiamo tantissime altre isole che sono collegate l'una dall'altra, un 400 isole, 400 ponti, tutti con un flusso continuo, bidirezionale, con interessi diversi, aspettative diverse, visioni. Gli ambientalisti hanno una visione, il burocrate ne ha un'altra, il politico ne ha un'altra, il medico ne ha un'altra, il ricercatore cerca di riuscire a portare all'optimum le sue ricerche, i pazienti ne hanno un'altra ancora, oppure hanno tante aspettative, ma l'uno dipende dall'altro e queste decisioni ricadono poi su tutto, in primis ovviamente in questo caso sugli abitanti dell'isola della medicina e su quella dei pazienti, che sono strettamente correlate. Hai detto un sacco di cose, dovremmo rielaborare. Non possiamo svelare tutto. No. Volevo chiederti, farti una domanda in merito alla medicina alternativa e al rapporto con questa. Cosa ne pensi? Il mio professore Pietro Greco, che è un, posso dire, mi ha dato l'onore della presentazione, insegna la Sapienza, è un grande scrittore, insegna a Trieste, all'Università per gli Studi Superiori sulla Comunicazione, nella sua introduzione ha fatto riferimento a un articolo che è uscito qualche anno fa su The Lancet, in cui Matthias Ecker, un ricercatore, insieme ai suoi colleghi, ha dimostrato, come più volte è stato fatto anche negli ultimi tempi con sperimentazioni pubbliche in contemporanea in tutto il mondo, che la medicina, parliamo adesso dell'omeopatia, e non confondiamo la medicina che impropriamente viene chiamata alternativa, ma che dovrebbe essere chiamata, e anche lì la precisione linguistica è fondamentale anche nella redazione di un articolo, nella spiegazione di un problema, e questo curo sottolineare in maniera particolare, perché non c'entra l'alternativa, cioè la medicina classica, accademica, va semmai accompagnata da una medicina integrativa, e all'interno della medicina integrativa abbiamo l'omeopatia. E nell'introduzione al mio libro si parla appunto di questa smentita dell'efficacia dell'omeopatia, che però non va interpretata come un attacco né all'una né all'altra parte, va un po' interpretata secondo il metodo abduttivo. Vogliamo dire altre cose. Da una parte vogliamo dire che l'effetto placebo funziona, e questo lo sa benissimo anche la medicina tradizionale, quindi l'effetto placebo va applicato anche alla medicina integrativa nell'omeopatia. La domanda è solo quella: vogliamo spenderli questi soldi, non vogliamo spenderli? Io come cittadino potrei essere liberissimo a spenderli per un certo tipo di farmaco oppure per un uno di questi prodotti integrativi, chiamiamoli così. Questo è un discorso. Il discorso ovviamente cambia se la mano pubblica investe in questo ambito. Non voglio esprimere opinioni in merito, cerco di essere molto molto obiettiva. Se l'effetto placebo funziona, prima di tutto dobbiamo recuperare l'umanità, perché se noi riusciamo a mobilizzare tali risorse in una persona che con l'effetto placebo riusciamo ad ottenere un'efficacia, allora abbiamo parecchio da lavorare, ma anche il medico ha parecchio da lavorare. In effetti anche il farmaco normale agisce secondo il principio del placebo, basta che l'effetto collaterale non sia troppo pesante. Il pro dell'omeopatia è che non ha effetti collaterali, diciamo così, negativi. L'altra cosa che vogliamo dire e che serve da input per aprire una grandissima discussione è proprio questo fatto che milioni di persone ricorrono a questi metodi. Quindi noi dobbiamo chiederci come mai milioni di persone, nonostante tutto, ricorrono a questi metodi. E questo ci vuole dire, e questo ci vuole far riflettere l'articolo di Matthias Ecker. Cioè ci dice, un attimo, guardate che voi state tagliando fuori una fetta enorme di persone che nella medicina tradizionale, pur d'eccellenza, non riescono a trovare una soluzione ai loro problemi, ma li hanno questi problemi, non perché diciamo la questione dell'ipocondriaco la troviamo sia nell'una che nell'altra, diciamo, fetta di pazienti, sia quello che va dal medico tradizionale che quello che va, diciamo, dal medico integrativo. Il discorso è che abbiamo bisogno che si recuperi la dimensione olistica. Certo. Quindi la dimensione integrale della persona che mi trovo davanti. E qui ritorniamo ai discorsi di prima. Quando un paziente oncologico va dal medico, anzi non sa ancora di essere un paziente oncologico, perché anche qui c'è stato tutto il discorso dei grandi progressi della medicina. La medicina da scienza morfologica, quindi medicina basata sull'organo, sull'esteriorità, la medicina che studia diciamo nel Settecento, perché la prima parte del capitolo è un excursus storico. A partire dal Seicento, sostanzialmente dal 600 in poi, dove la medicina assume i connotati più specificamente matematici e oggettivi del cosiddetto meccanicismo riduzionistico, partendo da Bernard, come parliamo un po' difficile. In ogni modo la scienza medica, che poi non andrebbe chiamata così perché è un insieme di scienze la medicina, una iatriche tecne, come dicevano i greci, cioè un potpourri tra medicina tecnica e arte, e qui ritorniamo al metodo. Per cui è molto importante vedere questa evoluzione, scienza morfologica, scienza batteriologica, la malattia molecolare è stata coniata nel 1949 da Linus Pauling, non è che è passato tantissimo tempo. Il problema è che rischiamo di individuare una parte sempre più piccola all'interno della problematica patologica, ma perdiamo la visione d'insieme. Quindi, anche perché non si tratta, secondo il metodo sperimentale matematico, che questo è uno degli errori, di una variazione quantitativa dello stato di normalità, vedasi in macchina, ma si tratta di una qualità effettivamente diversa. Un libro molto buono in questo senso è il libro di Kurt Goldstein, medico presso un ospedale militare di Francoforte nel 1940, il quale ha scritto questo libro, Da Auf des Organismus, è stato pubblicato recentemente anche in Italia, in lingua italiana, penso l'anno scorso, quest'anno, l'anno scorso, e parlava di come in realtà la persona, e ritorno poi al malato oncologico, la persona quando si ammala, in particolare di una malattia grave che lo segna, lui aveva a che fare con gli invalidi di guerra, quindi malattie di tipo neurologico molto mm-hmm. molto pesanti, una volta che esce da questo percorso travagliato si riassesta su altri valori, cioè non c'è un ritorno alla cosiddetta illibatezza biologica, non c'è un ritorno, c'è un riassestamento su altri valori che possono essere di tipo psicologico ma anche fisico, un'impostazione completamente diversa, cioè non è più il paziente che era prima. Per cui anche per questo la definizione che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dà sul significato di malattia salute è tautologica, cioè non spiega esattamente cos'è salute e malattie. Possono essere due cose effettivamente diverse, per cui quello che Kurt Goldstein spiega è che c'è un riassestarsi su parametri che vengono accettati come parametri di salute e spesso si mobilitano delle risorse che prima non si sapevano di avere. Faccio un esempio su tutti: una persona che perde una gamba, si è visto dalle analisi e dagli studi neurologici che alcune aree del cervello regrediscono a favore di altre che vengono iper sviluppate e che addirittura toccano altre aree, perché questa persona a un certo punto diventa anche artisticamente talentuosa, cose che prima non sapeva mai di fare. Cioè abbiamo proprio una trasformazione anche anatomica, oggi è possibile vederlo tramite la risonanza magnetica, quindi questo prima non si vedeva. Con questo voglio dire, torno al paziente oncologico. Il paziente oncologico e quindi i pazienti spesso nell'attuale medicina, quando fanno prevenzione, e grazie al cielo c'è la prevenzione, in realtà anche il paziente deve cambiare un attimino la sua visione delle cose, perché sostanzialmente fino a qualche decennio fa il paziente era paziente perché qui nell'ora e adesso era malato. Quindi la visione che paziente e medico hanno della malattia è prospetticamente diversa. Il medico la vede in prospettiva, per il paziente qui adesso. Allora, se io adesso non sto male, perché il medico adesso mi dice che io devo prendere le pastiglie dell'alta pressione se sto benissimo? Io questo non lo capisco. Il medico sa benissimo che spesso poi l'alta pressione si diagnostica per caso, perché non si sente. La bassa sì, l'alta no, ma l'alta è pericolosa e l'alta mi porta a delle invalidità irrecuperabili. Però sì, qui sì, il medico deve farsi capire come e il paziente deve collaborare. Quindi c'è anche questa visione, questa diciamo apprendere diverso, cioè questo apprendimento diverso della malattia. Allora, paziente potenziale, e non vogliamo sconfinare adesso nella, diciamo, quello che si chiama metodo pangenetico, che rischia di diventare di nuovo un problema diciamo di nicchia, ovvero del paziente potenzialmente e probabilmente malato. Parlavo prima dei geni del tumore del seno. Il paziente oncologico, quindi, gli viene somministrata una diagnosi spaventosa. Bisogna vedere di quali strumenti è dotata la persona a cui capita questo, perché capita a tutti, cioè non c'è una classe più o meno selezionata, può capitare a tutti. E visto che il cancro è un problema multifattoriale, e su questo non ci piove, allora o ci armiamo di competenze, anche di conoscenze, e cerchiamo di aprirci al problema, cerchiamo di dialogare tra noi due, medico paziente, o se no facciamo molta fatica a venirci fuori. Sappiamo, per quanto riguarda la comunicazione della notizia infausta, anche su questo sono stati fatti degli studi, che il paziente oncologico in media, poi c'è chi meno, c'è chi un po' di più, quando gli viene data questa bella notizia, tra virgolette bella notizia, si porta a casa, se è fortunato, solo il 30% di quello che gli ha detto il medico, cioè praticamente non capisce più niente e ha bisogno di un po' di tempo per riuscire a far decantare il tutto. Se poi magari ha degli strumenti, ha un entourage per cui riesce a scambiare, a diciamo verbalizzare, perché è molto importante all'interno di un rapporto medico-paziente la verbalizzazione, è molto importante dare un nome non solo all'essere malato, ma al sentirsi malato, perché sono due cose che vanno insieme. Quindi bisogna riuscire a snocciolare e nucleare questi concetti per creare un terreno fertile sul quale lavorare, cioè quello che in tedesco si chiama lösungsorientiertes Denken. Io devo cercare di basarmi sulle risorse presenti nel paziente, costruirle, ed ecco che ritorniamo sul discorso della perizia. La perizia derivante dalla storia medica del paziente, che gli dà la possibilità di acquisire nuovi strumenti per arricchirsi di informazioni e collaborare effettivamente col medico. Certo. Questo fa parte dell'educazione terapeutica del paziente, che è ritenuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità Europea dal 98 come uno strumento deontologico obbligato quello di informare, verificare, diciamo, l'attecchimento dell'informazione da parte del paziente e organizzare anche tutta una serie di attività, come vengono peraltro fatte soprattutto nei centri oncologici, di informazione, di alfabetizzazione sanitaria, di prevenzione all'interno degli stessi ospedali. Certo. Abbiamo capito che non è facile. Non è facile, ma le risorse sono anche immense, sì. E questo è importante anche capirlo. Sì, sì, è vero, è vero. E anche il progresso sicuramente ci può dare una mano. Certo. Io vorrei così avviarci alla conclusione di questa serata molto interessante con la richiesta di raccontarci un progetto che stai seguendo. Ecco, quello che ti senti di raccontarci, sì, di cui sì, vuoi anticipare così al pubblico. Dunque, ovviamente è bella la grammatica, ma è bella anche la pratica. E quando si legge un libro e si sentono cose anche complesse, come si diceva, è bello anche capire come possiamo metterle in pratica, queste belle regole, questi buoni propositi, questi metodi. Nel libro porto tre esempi. Uno è l'esempio del Mario Negri, e anche questa è una cosa abbastanza eccezionale. Se noi andiamo all'estero, noi abbiamo tutti questi istituti accreditati che fanno ricerche e cose, ma di istituti indipendenti ce ne sono molto pochini. E questo è un grande onore per l'Italia avere un istituto indipendente come il Mario Negri, che spesso poi diciamo emana delle linee guida che fanno parecchio bene un po' a tutti, pubblico e anche addetti ai lavori. Silvio Gratini è il direttore, spesso lui si cimenta con problematiche tipo di medicina e comunicazione. Una è questa, quella dell'alfabetizzazione attraverso corsi che vengono organizzati regolarmente in Italia sulle tematiche più diverse. Due, l'ASL di Bologna, l'ottimizzazione degli ambiti prenotazioni e centralini con sistemi di informazione che tra l'altro adesso nel frattempo sono stati anche attivati in Alto Adige per evitare che le liste d'attesa si allunghino, per ottimizzare i tempi delle visite, quindi allungare anche i tempi di ascolto eccetera, e tramite questo tipo di intervento siamo riusciti a diminuire, diciamo, la percentuale delle visite a vuoto e diminuire le liste attesa del 30-40% anche solo in un anno quando è partito il progetto. Arriviamo al progetto personale. Il progetto personale deriva da una mia vicissitudine personale, ci sono passata anch'io da questa malattia, il tumore del seno. Personalmente ho sempre fatto una vita molto sana, non mi sono mai chiesta perché e per come. Ovviamente la vita mi ha confrontato con tantissimi aspetti, un ambiente sociale molto molto stimolante, studi, sport, fatto anche a livello di squadra molto stimolante, che hanno anche insegnato a mettersi in gioco in molte situazioni anche impreviste della vita, e in questo lo sport è una grandissima palestra di vita. E ovviamente nella malattia poi si passa attraverso tutti questi ragionamenti che abbiamo appena fatto e altri ancora, e si cerca di mobilizzare, una volta capito com'è il gioco, delle risorse che già si hanno, e tutti noi abbiamo delle risorse potentissime, e spesso magari da soli non riusciamo, magari abbiamo anche dei caratteri diversi, c'è chi è più forte, chi è più debole. Lo sport mi ha insegnato moltissimo anche in questo. Insomma, uscita, non voglio dilungarmi in quello che è il calvario oncologico, ne sono uscita bene per fortuna. Sono stata in cura al centro senologico di Merano del primario Herbert Heidegger. Ma già dal letto d'ospedale avevo incominciato a confezionare un progetto. Allora io ho detto, innanzitutto in chemioterapia non c'è stato un giorno in cui io mai abbia saltato la mia passeggiata di mezz'ora. Canonica, sempre passeggiata di mezz'ora. Non ho dovuto prendere medicamenti, anti-nausea, eccetera, con sorpresa, perché di solito ovviamente i capelli e tutte queste cose qui va bene, si recuperano. magari più belle di prima, chi lo sa. E anche in questo in futuro ci sarà un accompagnamento, ci sono già dei progetti a livello, insomma, in America, che si cerca di fare qualcosa anche per così dare un aiuto anche estetico alle donne in quella fase particolare. E visto che comunque con lo sport ci ho avuto a che fare, ho avuto sempre un buonissimo contatto con il mio corpo, anche nella scoperta, devo dire, della malattia oncologica, sono stata di aiuto al medico, perché abbiamo accelerato dei tempi che magari avrebbero potuto essere molto più lunghi. Quindi il conoscersi è un vantaggio, cioè l'avere a che fare, avere una buona relazione con il proprio corpo, soprattutto noi donne, quindi parlo anche dell'autopalpazione, l'autoesame del seno, che è molto importante. Parlo della statistica. La statistica dice che se noi facciamo buon autoesame del seno, ma sempre che ovviamente sia validato, vuol dire sempre lo stesso giorno al mese, sempre 2 settimane dopo il ciclo, sempre in assenza di ciclo lo stesso giorno a distanza di un mese, quindi deve essere una cosa quasi scientifica. Ecco, perché questo sia attendibile, più o meno scientifica, sappiamo che i noduli si scoprono nel 70% dei casi proprio con l'autopalpazione. Il resto... il 25% tramite mammografia e il 5% con la visita clinica, quindi con l'ispezione corporale da parte del medico. Ecco, questo solo per dire. Ed esistono anche dei metodi molto buoni, esistono anche dei centri che organizzano dei corsi di qualche ora, 3/4 d'ora, un'ora, per così dare anche sulla base di alcuni supporti, diciamo, in silicone, la possibilità di capire, di sensibilizzare l'autoesame, e arriviamo al mezzo centimetro quasi come, diciamo, accuratezza pari a quello della mammografia. Ovviamente per cose diverse, perché la mammografia poi vede alcune cose che io con la mano non sento, perché io sento con la mano solo il nodulo, parlo solo di noduli. Detto questo, io sono anche istruttrice, insomma, nella mia carriera passata, istruttrice di fitness, insomma, ho fatto triathlon, c'è un mio caro amico che abbiamo fatto insieme alcune gare, insomma, questo per dire che durante il recupero della malattia oncologica lo sport rivestiva un ruolo fondamentale, non solo per la questione biologica, perché stavo meglio, anche per la questione psicologica, penso che sì, e la questione sociale, cioè io uscivo con gli altri. Quindi la componente bio-psico-sociale è una questione che riguarda di nuovo la dimensione olistica della persona, e le persone stanno molto meglio. E in questi studi si sono dati molto da fare sia gli americani, ma in primis in Europa l'Università di Colonia, la quale già nel tardo 70, insomma all'inizio degli anni 80, con un oncologo, il professor Schüle, ha avviato i primi studi su pazienti oncologici di riabilitazione territoriale, quindi non parliamo della fisioterapia in ospedale, parliamo della fase post-acuzie, quella fase tremenda in cui si apre un baratro tremendo, dove tu praticamente non è che stai di nuovo bene, stai peggio di prima, di quello che eri prima potenzialmente malata. Sì, sì. Quindi lì incomincia la vera e propria tragedia dell'ammalato oncologico. Ecco, se riusciamo a mobilizzare le forze, ci sono vari approcci. Parliamo adesso dell'approccio dell'attività fisica fatta in compagnia, con delle istruzioni ben precise. Insomma, dopo una trentina di studi, e parliamo oramai di studi a livello di pazienti, diciamo di entità oncologiche molto ben studiate, che sono il tumore della mammella, il tumore del colon retto e il tumore della prostata, ma anche le malattie ginecologiche oncologiche, abbiamo degli studi che depongono assolutamente a favore di una riabilitazione fisica territoriale, quindi per un periodo più lungo, senza assolute controindicazioni se non quelle mediche, cioè il medico, una volta che dà il nulla osta sulla possibilità di operare un'attività moderata di tipo aerobico, una rieducazione per esempio della parte scapolo-omerale, che purtroppo è spesso interessata dai linfedemi, dipende da quanti linfonodi sono stati estratti. Oggigiorno certo. l'escissione ascellare non si fa quasi più, ma comunque le problematiche sono pesantissime. Parliamo poi delle terapie a cui vengono sottoposte le donne, sono pesantissime. Spesso non è che fa paura l'intervento chirurgico, fa paura 5 anni di tamoxifene, prendere peso, non riuscire più ad avere figli, oppure si fa la terapia con l'aromatasi e divento osteoporotica di colpo. Quindi tutto un insieme di cose che vanno sapute. Questi studi sono stati fatti all'Università di Colonia, sono stati fatti anche 2 progetti molto interessanti sul Cammino di Santiago con pazienti affetti da tumore della mammella. Insomma, si è stabilito che ci sono dei miglioramenti decisivi per quanto riguarda l'articolarità scapolo-omerale, la qualità di vita, ovviamente lo stato psicologico cambia totalmente, per quanto riguarda gli esami ossidativi un miglioramento delle difese immunitarie e un recupero molto molto più veloce della malattia, riuscendo poi a mobilizzare, a coinvolgere anche tantissime altre persone che magari da sole non sono in grado di uscirne. Il progetto si chiama Terapia del Movimento, l'ho introdotto 2 anni fa insieme alla ricercatrice che ha presentato lo studio alla paziente diplomata a Bolzano dell'Anlus Mamazon. Lo porto avanti, diciamo, è partito nell'aprile del 2010 con il primario Heidegger al Centro Senologico di Merano e seguiamo in un ciclo di 12 settimane le donne, una volta in settimana al mercoledì per 2 ore, affette da tumore del seno e malattie ginecologiche e oncologiche. Si cerca di fare un'anamnesi iniziale assieme al medico curante, che è sempre uno specialista del centro, quindi partiamo dall'ospedale, dei test iniziali, diciamo, di idoneità, e superate le controindicazioni di base che sono codificate, le donne alla fine stanno molto molto meglio di prima. Abbiamo un gruppo oramai molto ampio di donne che poi si incontrano, e anche questo è il bello, per quello parlo dell'aspetto biopsicosociale, cioè quando noi facciamo movimenti in compagnia ci divertiamo tantissimo, facciamo bene al nostro corpo ma facciamo bene anche alla nostra mente e a chi sta con noi. E in più abbiamo la possibilità di parlare dei nostri problemi non stando seduti su una sedia a piangerci addosso, ma mobilitando le nostre risorse, facendo qualcosa che ci fa bene, che sprigiona in quel momento delle sane endorfine che sono anche pure curative, che non ci fanno andare in depressione, e inoltre riusciamo ad avvicinare magari la nostra vicina più debole di noi. Grazie Valentina per come ti sei presentata e soprattutto non solo per il libro ma per quello che fai a favore della comunità e delle persone. Sì, ecco, sottolineo che è un progetto no profit, ovviamente è un progetto no profit nel quale ho sempre creduto e che adesso è stato già presentato in diverse sedi, proprio perché sono del parere che ognuno di noi può fare moltissimo, siamo in una goccia in un grande mare, ma se tutte queste gocce si mettono insieme, penso che di cose grandi se ne possono fare in tantissimi altri ambiti. Questo è uno dei tanti. Sì. Grazie allora ancora. Grazie. E se c'è qualcuno di voi che ha così interesse, curiosità, qualche domanda da fare alla nostra autrice? Io vorrei fare una domanda. Prego. Comincio io? C'è anche la Valentina dopo. Sì, abbiamo visto. Vai pure. In altre parole si potrebbe dire che è la persona all'inizio malata già nella mente, il corpo viene sempre dopo. Io vedo ormai le cose nella mia vita in un'altra maniera. Poi ho fatto ultimamente un'esperienza anche con ospedale, medico, per un problema, di solito io non ho mai avuto problemi di questo genere, mi si è gonfiata, la porto lì, vedo come la vede lei, dei tendini nella caviglia, non il tendine d'Achille, sul fianco interno ci sono dei tendini che vanno verso le dita. Una cosa è andata avanti 3 anni, io non ho mai voluto prendere in mano la cosa, passerà, sempre gonfio, sempre male a camminare, ho detto cosa vuoi fare? Per me il tendine è infiammato, un po' di conoscenze ce le ho, probabilmente ci sia formato del liquido interno anche. Sì, dai, andiamo una volta all'ospedale, vai dal medico di fiducia, quella trafila, aspetti un mese prima di fare una radiografia, perché il medico non sa dire cosa sia, potrebbe essere quello, ma sì, cosa. poi fai questa qui, non si vede niente, allora vai all'ospedale a visita da un, come si chiama, specialista in ortopedia, ne becchi uno che c'è a caso, devi aspettare un mese e mezzo prima di andarci, vai, guarda un attimo, guarda, ma sì, per lui sarà questo, sì, questo lo avevo già capito io cosa può essere, no? Che cosa, ma bisogna operare in questi casi, spiega il perché, il per come, dal punto di vista, però prima fare una magnetografia, aspetti 2 mesi per farla, per puro caso se un capitato c'era un posto libero, no? Se non passava più tempo. E lì si vede quello che mi ha detto, che io avevo già pensato che fosse, no? Per tanti motivi. Bisogna operare, non c'è alternativa. Ah, non si sa perché vengono queste cose, per lui bisogna operare, bisogna vedere se bisogna ripararlo, soltanto ripulirla fuori, cose di questo genere. Ok, ok, si fa. Bisogna almeno aspettare 3 mesi, se va bene. Ok, questa è cosa standard. Lui ha detto, vedi, se vieni in ospedale a fare visite, c'è una colonna di gente qui che aspetta, uno dietro l'altro, sembra di essere una catena di montaggio, ha detto, no? E non sa più cosa fare, ma le cose vanno così, ha detto. E allora nel frattempo ho detto, una volta devo pensare a me stesso, e mi sono arrangiato. Io mi sono arrangiato, ho cominciato, in base alle conoscenze che ho, mi sono appropriato nel tempo, a fare dei massaggi in una certa direzione, con certe cose che mi sono preparato a casa. Ho cercato anch'io omeopatia, ho trovato una cosa che me la sono ricercata a modo mio, non vorrei dire come ho fatto, mi sono fatto delle punture sottocutanee, passa 2 o 3 settimane, a un certo momento si sgonfia e adesso lo muovo, salto come prima. Ok? E è venuto il tempo di fare questa operazione, ho detto no, non la faccio perché... Oh, se la caviglia funziona bene, se è sgonfiata non fa più male, non vedo il motivo perché farlo, perché operare è sempre rovinare, in qualche maniera. In un modo o nell'altro. La domanda qual è? La domanda qual è? Lei racconta tante belle cose, però al lato pratico, io ormai ho un'altra visione olistica della vita, la persona è prima malata nella mente e il corpo viene dopo. Le cause scatenanti poi saranno problemi di vita, saranno i virus, saranno i batteri, quello che sia, ma l'origine è sempre un'altra. Ma io sono del parere che comunque il bravo medico cerca di recuperare la dimensione olistica, anche se fa attualmente una grandissima fatica, perché comunque il sistema sta risparmiando moltissimo, il personale si sta riducendo, parliamo adesso del medico di base. Sappiamo dagli studi che il medico di base è la persona comunque di fiducia, di riferimento della persona, perché la persona che viene istituzionalizzata ha delle altre aspettative nei confronti dell'ospedale. Per quanto quello che lei, per dire, se vengo istituzionalizzata, se vengo ricoverata, per me è importante, dico quello che parlano le statistiche, che ci siano delle liste d'attesa più brevi, che l'ospedalizzazione funzioni, in un pronto soccorso ho per esempio l'aspettativa che ci sia un buon passaggio di consegne, che l'infermiere sappia quello che aveva detto il medico prima e che il servizio venga garantito nelle ore diurne come quelle notturne. Quindi cambiano le aspettative a seconda del target cui io mi rivolgo. Il medico di fiducia, medico appunto di base, è e rimane il medico di fiducia, e credo che ai medici di fiducia vada anche data una gran mano, perché comunque sono lo snodo per arrivare poi alla specialistica, che gioco forza non avrà mai il tempo di seguire, o perlomeno di avere la dimensione olistica di cui parla lei, che comunque deve rimanere da qualche parte. E chi meglio del medico di base, che ha la mia anamnesi, la mia cartella clinica storica. La domanda che le faccio, sono passati tanti anni e poi ci si lamenta di un mese d'attesa. Allora, ci sono delle cose veramente gravi dove il medico interviene subito. Se io telefono in una specialistica in ginecologia e dico guardi, ho trovato un nodulo, io credo che tutti gli specialisti, il senologo, la prenda se non oggi domani. Se lei dice, senta, io voglio avere a tutti i costi una mammografia perché voglio farla una volta l'anno e lei mi fa aspettare 3 mesi, ma forse bisogna pazientare, forse le altre donne cui sono in fila e che stanno aspettando adesso il resoconto hanno avuto un esame dubbio mammografico e ne hanno bisogno di una seconda per chiarire il dubbio. Penso che comunque anche da parte dei pazienti ci voglia modestia, ci voglia attesa, ci voglia pazienza. Sappiamo che tante cose possono partire dalla mente, sappiamo che tante cose si possono somatizzare, ma dobbiamo anche far valere le nostre competenze per quello che sono e metterci in gioco con le competenze del medico. Dobbiamo anche accettare che il medico non sappia darci subito la risposta, perché la medicina non è una scienza esatta. Questa è la risposta. Posso chiedere? Sono una cosa. C'era la signora dietro, scusi, sì, che si era prenotata. Scusi. Sarò rapidissima. Ciao, io sono Valentina anch'io e lavoro nell'ufficio comunicazione di un centro che, di ricerca che si occupa tra le altre cose di biomedicina. Interessantissimo. Ho un interesse di parte. Sì. Volevo tornare alla tua metafora dell'arcipelago medicina, sì, e chiederti: tra l'isola del paziente, l'isola del medico, l'isola del ricercatore, che posto occupa quello dei finanziatori? Quindi penso all'industria farmaceutica, ma certo, anche alle istituzioni, certo, a chiunque finanzia la macchina medica. Siamo nelle malattie rare, per esempio, anche, no? Sì, è una buona domanda. Ovviamente l'isola dei ricercatori. Bisogna vedere se è proprio Venezia o se ci troviamo in un arcipelago del Pacifico con l'acqua alta. Allora, se siamo in Italia, l'isola dei ricercatori è un po' poverella e l'isola dei finanziatori è molto lontana. Prima che arriviamo all'isola dei al momento le cose possono cambiare, ovviamente, però tutti i punti sono collegati, nel senso che il flusso di comunicazione che ho tra l'isola del ricercatore, se il flusso, parliamo adesso di comunicazione bioetica, comunicazione bioetica è un argomento, diciamo, negli ultimi 10 anni è in auge più che mai, proprio perché dall'altra parte la ricerca biologica è entrata nella molecola e nel genoma, quindi si apre un vaso di Pandora. In Italia dobbiamo vedere dove ci collochiamo. Allora, se il flusso decisionale, vedasi informazione, comunicazione, riesce a coinvolgere attraverso questi punti comunicanti non solo l'isola del finanziatore, che poi bisogna vedere se è a favore o contro, ma anche quello dei decisori politici, rispetto a delle aspettative, parliamo di bioetica di tipo diciamo non sperimentale, lontani dall'eugenetica negativa. Quindi dobbiamo vedere che decisioni, quale forza di decisioni, chi mi propina la comunicazione, un esperto, la forza della comunicazione, il ponte. Se su questo ponte il flusso di comunicazione è molto forte e vengo spinto da altre isole, dei decisori, testimonial, ricercatori universitari, professori universitari che interagiscono con la tua isola, io riesco a spingere tantissimo in questa direzione e riesco, se il decisore politico mi dà una grande mano, quindi siamo sempre comunque ancora in collegamento, la metafora col ponte dei decisori politici, riesco ad allontanarmi dall'impeto del finanziatore di interesse. Adesso non so se sono riuscita a rispondere, però si descrive molto bene come il flusso sia bidirezionale ma abbia portata diversa, ed è anche compito tuo o comunque dell'istituto, eccetera, riconoscere tutti questi elementi, questa costellazione che può essere in grande simbiosi col tuo progetto. Bisogna coinvolgerli tutti. E questo ci dà indipendenza poi rispetto al finanziatore interessato. Rispetto all'interesse. Assolutamente. C'è il signore. Volevo chiedere, è giusto dire la verità quando un paziente viene trovato il cancro, diciamo che c'è il cancro, dire la verità a lui oppure cercare di trovare altre parole, altre soluzioni, altre cose, diciamo. Specialmente una persona che è emotiva, diciamo che è molto emotiva così. Certo. cercare di nascondere sarebbe meglio, secondo me, non so, cioè, dargli coraggio così. Cioè. Beh, allora i quattro principi della deontologia medica sono il benessere del paziente, il non nocumento, non fargli male, la giustizia e l'autonomia. Allora, il benessere bisogna intenderlo in senso sia medico, dal punto di vista del medico, il medico ha l'obbligo di dire la verità, questo è un fondamento, però la verità può essere detta in maniera diversa, senza diciamo nascondere quello che al paziente può far bene, il benessere, cioè. E su questa base, il discorso che si faceva prima, conoscere un attimo la storia del paziente, sapere chi ho davanti, mi permette proprio di trovare le parole giuste per ogni singola situazione. Non è facile. All'interno del mio libro dedico proprio un capitolo, un paragrafo lungo, alla comunicazione in ambito oncologico. Ci sono anche delle formazioni specifiche per fare questo. Sicuramente è una cosa molto molto difficile per ambedue gli attori del problema, ma il comunicare è già una grandissima risorsa, perché in qualsiasi momento io mi trovi della diagnosi, io posso in questa maniera, nei modi garbati, nei modi giusti e appropriati, mobilizzare le risorse che il paziente ha in quel momento, sia per la guarigione completa, e quindi glielo devo dire, sia per un mantenimento di un'altissima qualità di vita e soprattutto affrontare con la massima adesione e convinzione le terapie. È fondamentale. Bene, ringraziamo allora Valentina Vecelio ancora per la sua opera di divulgazione e per quanto fa anche come volontaria. Grazie. Grazie mille, grazie a voi.